Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il mio primo bacio è stato a 15 anni. Mi ricordo soltanto che era una giornata piovosa e io ero emozionatissima. È stata una cosa molto strana. Il mio primo bacio è avvenuto in un pomeriggio autunnale, ero alle scuole medie, con un mio compagno di classe, si chiama Alessandro. Ero a scuola, sotto il banco di scuola, e c'è stato questo piccolo contatto. Il mio primo bacio è stato una sera dopo il cinema, un concentrato di emozioni diverse, e bello alla fine. Io avevo tipo 14 anni e ho dato il mio primo bacio a quello che poi è diventato il mio primo fidanzatino, era inverno, scioccante. Bello. E è stato a casa mia mentre guardavamo un film terribile che era Hot Movie, il film meno romantico del mondo. Sembra qualcosa che appartiene ad altri tempi, parlare del primo bacio. Boh, ve lo ricordate il primo bacio? Sì, uno se lo ricorda, ma non è che poi sia tutta sta gran cosa, una cosa da ricordare tutta la vita, qualcosa che appartiene ad altre epoche. Oggi ci si bacia molto facilmente, o magari si fa sesso selvaggio e non ci si bacia nemmeno, o ci si bacia se va a ribaciare, ma sembra qualcosa che ormai appartenga a retaggi romantici non più registrati dai media. Invece ieri è accaduto qualcosa di molto singolare, su cui voglio convocarvi o voglio chiedere il vostro parere. È apparso ieri un video su YouTube, First Kiss, il primo bacio, il bacio di una filmmaker russo-americana, Tatia Pilieva, che ha chiesto a 20 persone di baciarsi. Ha preso 20 persone che non si conoscono tra di loro, uomini, donne, gay, lesbiche, e ha detto baciatevi. Ha fatto le coppie, ha costruito le coppie e l'ha messi uno di fronte all'altra. Un ragazzo e una ragazza, due ragazzi, due donne, una donna diciamo attempata con un ragazzo molto giovane, e ha detto adesso vi baciate. Questi si guardano in faccia, sono un po' imbarazzati, ridacchiano, non sanno bene come cominciare, poi a seconda delle coppie o si va avanti la ragazza, cominciano a abbracciarsi, prima si guardano negli occhi o non si guardano per niente, o gli viene la ridarella, lui gli viene da ridere. Ma pensate voi, vi porto davanti una persona e dico adesso baciatevi, così, normalmente, gratuitamente, non perché vi amate, non perché ci avete provato, non perché c'è stata una serata particolare, non perché questa persona ti piace, niente, uno sconosciuto. Devo dire, sono tutti belli, ci avesse messo uno con un dente storto, con qualche macchietta sul viso, anche la signora dovrebbe fare l'attempata, ma per modo di dire, sembra una ragazzina, ha solo degli occhiali, i capelli un po' dimessi, ha un'aria di madre di famiglia che non si cura più tanto, ma in realtà è una modella anche lei. E cominciano a baciarsi, prima si sfiorano le labbra, poi a seconda delle coppie, o si avvinghiano proprio, a un certo punto vengono presi, gli scatta l'embolo e si mangiano di questo bacio, o si danno un bacio normale, come se fosse un film, o si baciano con molta passione, o si baciano e rimangono abbracciati, quelli che hanno improvvisamente scoperto quel bacio gli ha aperto delle porte indescrivibili che non immaginavano. O si baciano, o in un caso una ragazza che si vede, che è molto smart, lo saluta, beh ciao, è stato bello, arrivederci. Lui rimane lì un po' come un salame, dice ma come l'ho baciata è tutto così, finisce così. Si baciano i due gay normalmente, un bacio che non farebbe non ridire nemmeno Giovanardi, nemmeno ci se ne accorge, capito? Si baciano le due donne con molta tenerezza, nulla a che fare con quei baci lesbo strappati quando ci sono i paparazzi dalle eroine del Grande Fratello e robe simili. Insomma, c'è una totale destrutturazione dell'aspetto lubrico, erotico, sensuale del bacio e una improvvisa fascinazione, un'empatia, per cui improvvisamente viene la nostalgia di quei baci. Beh, questo è accaduto perché 4 milioni di persone nel giro di poche ore hanno condiviso questo video. 800240024, vi spiegate il perché del successo del primo bacio? Non sei mai stata baciata e temi di non esserne capace? È normale essere nervosi quando si parla di primo bacio. Ecco quindi alcuni consigli per dare il meglio. Usa il burro cacao per avere labbra morbide e una mentina per l'alito fresco. Parti con il piede giusto. È il momento, lui si sta avvicinando, fissagli le labbra e all'ultimo momento chiudi gli occhi. Piega leggermente la testa di lato e appoggia le labbra sulle sue. Io non so chi sia questa signora che dà consigli su YouTube di come si dia il primo bacio. È esattamente l'antitesi del video della Pileva, è un'altra cosa. Si dà delle indicazioni tecniche di come si dà il primo bacio. È come dire, prima di fare l'amore lavatevelo per bene, metteteci il lucida labbra, non lo so, qualcosa di strano, mettete il burro cacao per ammorbidire le labbra, vabbè, beh, è terrificante questa cosa, mangiate la mentina perché non si senta l'alito cattivo. L'alito di mentina è un alito sintetico, meglio sentire il sapore di una persona, secondo me, al primo bacio, l'assaggi subito. E i nostri connettori dalle sensazioni olfattive, tattile, di gusto, subito ci danno l'analisi della persona che abbiamo avanti. Mettere burro cacao e mentine significa creare un diaframma che ci impedirà di avere un'immediata conoscenza. Ma ritorno alla domanda, vi prego, visto che siete un pubblico a volte incline anche all'interiorizzazione, com'è improvvisamente tornato di successo il primo bacio? Com'è il bacio diventato così importante? Com'è qualcosa che era così corroso dall'abuso che viene fatto dalla pubblicità, dallo sfruttamento commerciale? Pensate il bacio, quanto se ne parlate sotto San Valentino, una cosa terrificante per vendere i cioccolatini omonimi che ben conosco naturalmente, essendo scaturigine della mia terra, come lo sono tante altre cose. Il bacio che lo racchiudiamo in qualcosa di cheap, di terribile, di fogliettino con la frasettina d'amore, o di qualcosa che raramente ci si dà, ci si bacia, si va quando ci si innamora da ragazze, ci si bacia, si baciano gli adulti, ci si bacia da anziani. Un'amica mia, Barbara Alberti, dice: quando si baciano due bocche una deve essere giovane. E beh, certo, non è proprio il caso probabilmente di quello che leggiamo questi giorni su illustri mariti ed illustri mogli legati a situazioni poco chiare con ragazzine poco inclini ad andare a scuola e fare le brave ragazze. Ma io attendo risposte sul primo bacio. Inizia con alcuni piccoli baci a stampo e poi, se te la senti, apri leggermente le labbra aggiungendo la lingua. Muovila piano, giocando e assecondando i suoi movimenti. Ricorda di non andare troppo a fondo e di non essere rigida. Non dimenticare di respirare dal naso e ricorda di usare anche le altre parti del corpo. Mentre lo baci, abbraccialo o accarezzagli i capelli. Quando le labbra si staccano, fai un bel sorriso al tuo lui, si sentirà il ragazzo più macio del mondo. E ora non ti resta che provare. Ma io spero che nessuno segua queste istruzioni. Poi aggiungi la lingua, sembra una ricetta di cucina. Aggiungere sale quanto basta, introdurla non troppo, senza affondare troppo, mica è un'iguana, la metterà per quello che può allungare la lingua. Respira dal naso, ma da dove deve respirare? Quali altri buchi da cui si può immettere aria esistono in un essere umano, oltre la bocca impegnata nel bacio e il naso? Ma persone brave riescono a respirare con la bocca anche mentre baciano. E il bacio dovrebbe servire a far sentire macio il ragazzo. Ora arriva anche una segnalazione di una mia amica su Facebook, che ha l'occhio lungo, lavora in pubblicità, dice: guarda che è tutta una bufala, hanno tutti lo stesso vestito di una nota marca, sono tutti modelli, è tutta una abilissima costruzione, giocando su qualcosa di fortemente emotivo, probabilmente i primi contatti sono quelli che si acquistano in rete. È stato creato un caso di fronte a quello che altro non è che una sorta di azione di pubblicità virale, viral marketing. Ma non so se è così, fatto sta che ne stiamo parlando. Alessandro. Buongiorno. Hai visto il video? Ho visto il video, come appunto... Come sì, com'è circola dappertutto, è impossibile non esatto, vederlo. Esatto. Che ne pensi? Ma penso che come esperimento sia ovviamente riuscito, visto il successo, e probabilmente... è che il bacio viene visto comunque come uno degli aspetti più intimi di un rapporto, nel senso che in questo periodo dove ovviamente tutto è ostentato e dove fondamentalmente si può vedere di tutto. Ma tu ti immagini, ti ricordi il famoso video della pompa di Belen? Sembrava che fosse l'apice della trasgressione, ma non ha fatto tanto scalpore quanto hanno fatto 20 persone che si danno un bacettino, normale, tranquillo, da fidanzati. È vero, ma probabilmente perché appunto il bacio, essendo una cosa, ribadisco a me personalmente, probabilmente più intima che l'atto in sé. Mi veniva in mente non so, nel vecchio film di Pretty Woman, dove lei, Julia Roberts, pur facendo la prostituta, diceva: io non bacio mai i miei clienti. Probabilmente perché il bacio viene visto veramente come... Sì, sì, le prostitute si sa che non baciano i clienti. Poi bisogna vedere, adesso sono cambiate, vabbè, molte. Sono cambiate molte. E probabilmente la curiosità di vedere la reazione di due perfetti sconosciuti che si baciano e che quindi probabilmente nell'immaginario... Ecco, tu hai detto una cosa giusta. La cosa che a me un po'... diciamo, crea pensiero e crea sensazione, è pensare normalmente le persone si baciano. Ora, persone cosiddette leggere, secondo un giudizio cupo e beghino della società, si baciano subito. Ha dato un bacio al primo incontro, ho baciato quell'uomo e tu dici: ah, svergognata, l'hai baciato solamente una sera che siete usciti insieme. E però c'è un insieme, una motivazione. L'ha baciato perché le ha parlato, l'ha affascinata, l'ha trovato interessante, le ha fatto tenerezza, gli ha raccontato che ha una malattia inguaribile, l'ha raccontato che fa tutte le storie che raccontano gli uomini per infilare la lingua in bocca a una donna e dire: tanto ci ho messo il marchio, è inutile dirlo, è così. Però è motivato, è giustificato, c'è una storia attorno. Ma un bacio di due persone che vengono come selezionate da una macchina, immaginate che escono da due porte, uomo donna, donna donna, uomo uomo, è indifferente quello. Anzi, un'amica mia mi dice: non hanno messo un disabile. È vero, perché non hanno messo un disabile? Sarebbe stato interessante anche vedere due persone sulla carrozzella magari che si baciano, però hanno evidentemente, per la pubblicità quello non funzionava. Ecco, la cosa che sconvolge, dico Alessandro, è proprio il fatto che c'è una sorta di automatismo, baci e è pura, unica abbandono a qualcosa che è molto intimo. È come dire: metto in gioco la mia intimità più profonda in questo momento. È un gesto eroico, sconsiderato, se ci pensi. Quello è vero, però come hai detto all'inizio, in effetti le reazioni successive sono molto diverse coppia per coppia. Certo. Quindi probabilmente in alcune coppie, come hai detto all'inizio, è scattato qualcosa, perché fondamentalmente poi il basso, in effetti, che... ti può far scoprire cose che magari senza questo tipo di contatto non avresti mai detto. Ma no, scherzi, è una cosa fondamentale. Per questo non ci si bacia più quando si è abitualmente, perché non c'è più bisogno da scoprire nulla, una persona che conosci bene, ci si bacia meno perlomeno, perché c'è la foga di baciarsi e di mangiarsi, divorarsi quando si è ragazzi, si è innamorati. Ecco, hai notato per esempio la signora cosiddetta, chiamiamola l'attempata, con quale tenerezza gli viene da ridere, dice: ma io devo baciarmi sto ragazzino, e lui gli dice: ma no, baciami, figurati, esatto, potrei essere tuo figlio. Quella è anche una cosa divertente. Infatti. No, comunque come esperimento secondo me è stato al di là del molto carino, anche perché ne stiamo parlando, è stata scoperta, esatto, una gamma dell'emozione che non è il livello più estremo della pornografia. Melog, cronache meridiane. Il primo bacio di un ragazzo che, accarezzando il volto di una ragazza, decide di sconvolgere la sua vita e decide di farlo in modo non affrettato, avvicinandosi. Non la bacia subito, decide di fermarsi prima. Ecco, queste sono le tipiche cose che mi fanno venire il vomito. Non bacerei più un essere umano, un animale, una statua, un oggetto inanimato per sei mesi se dovessi legarmi a questo tipo di immaginario. Colpiti da ciò che ho detto, mi scrivono gli ascoltatori: Gianluca, le tartarughe respirano anche dal retto. Beh, se tu mi fai vedere un essere umano con bocca e naso tappato che respira dal retto, io ti faccio un regalo. Molti dicono: ma se è una pubblicità, anche le reazioni potrebbero essere state indirizzate. Sì, potrebbe essere anche un perfetto copione. Hanno studiato, con il supporto di psicanalisti, di attenti osservatori dei comportamenti umani, quelle che può essere una gamma di reazioni di persone che si baciano, e l'hanno fatte baciare. È stato tutto studiato a tavolino, benissimo, ma anche se siamo stati indotti da un sistema perfetto, non importa, è come i replicanti di Blade Runner, non ci importa se i nostri ricordi appartengono a qualcun altro, non ci importa se noi non abbiamo sentimenti, non abbiamo memoria, noi sentiamo e quindi vogliamo vivere. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo solo dire due cose. Una era il ricordo del mio primo bacio a 14 anni, praticamente con un ragazzino che non era nemmeno il mio fidanzatino dell'epoca. Ed è vero che non si scorda mai. Col fidanzatino proprio... invece che faceva se non lo baciava? Come? No, se fidanzatino non lo baciava all'epoca. Era una sera d'estate, quegli incontri casuali in montagna. Sì, ma il fidanzatino che c'era però non era stato baciato. Come mai? No, non avevo fidanzatino. Ah, non c'era un fidanzatino. Proprio... No, non c'era un fidanzatino, era proprio una persona incontrata così... Casualmente. Casualmente, insomma. Ed è stato, credo, uno dei baci più dolci della mia vita, ma perché è proprio un mix di sapori, di odore, il sapore, ecco, il sapore dell'altro, credo che sia proprio... Di che sapeva? È un sapore indefinibile, non si può spiegare. Però era talmente bello che una cosa così poche volte poi dopo l'ho vissuta. E infatti credo che la seconda cosa che volevo dire era questa: la più grossa malinconia anche per questi incontri di sesso semplicemente sfrenato, che a volte anch'io insomma ho avuto, è proprio il non avere avuto questo gusto dell'altro, cioè che è una cosa indefinibile, cioè ma per avere il gusto dell'altro ci vuole un po' di intimità. Il sesso sfrenato, esatto, che non è da disprezzare, ogni tanto fa bene anche quello e ci aiuta. No, infatti, sì, infatti. Sì, però non è che ti lascia molto. Poi incontri la persona, sì, puoi diventarci amico, amica, a seconda di con chi sei stato, ma è niente, è come una bottiglia vuota che ci metti un paralume e ci fai una bajour, perde la sua funzione d'uso primaria per cui l'hai pensata e allucinata. Grazie Laura. Michele. Sì, pronto? Sì. E niente, io sono stato sempre in disaccordo con i miei amici. Pronto? Sì, sì, l'ascolto. Ah, sì. No, niente, siamo in disaccordo con i miei amici perché ho 52 anni e ho dato sempre un'importanza incredibile al bacio. Io penso che sia una questione di sensibilità. Come sì, basta prima, che corrisposta l'importanza. Le vuol baciare una persona che è minimamente reticente, non c'è di peggio della bocca che si chiude, che si rigidisce. Ah, sì, sì, la persona sì, che ti bacia, ma sì, ne farebbe volentieri a meno. Uno pensa mi puzzerà il fiato, che problema c'è? Ecco, uno pensa a questo. Sì, sì. No, però quando è corrisposto io penso che sia la cosa più bella. Infatti ho ancora adesso dei ricordi vivissimi di baci, e magari non di rapporti sessuali o del fare come dicevamo. Lei si ricorda, più il bacio del rapporto. Beh, non va che non bisogna deprezzare il rapporto sessuale, sennò viviamo in una dimensione romantica, no, dolce no, stil novista. Oggi è inflazionato però, Diciamo, oggi, sì, è inflazionato. Oggi è inflazionato il corpo, come diceva giustamente l'amico che ci ha preceduto prima, cioè le prostitute vendono il proprio corpo ma non ti danno un bacio. Quindi vabbè, mica si può comprare tutto, il bacio non si compra. Il corpo è meno importante dell'intimità che può dare un bacio. Ma diciamo, il bacio in sé è un momento di apertura, è un momento di cedimento. Si bacia una persona, gli concedi la bocca, la lingua, lo fa entrare dentro di te, è un preludio al resto. Il bacio amoroso, diciamo, il bacio passionale, no? Il bacettino ci si dà fra amichetti, il bacio passionale è il preludio a un altro tipo d'entrata. Se poi ci si fermasse lì sarebbe un blocco. Ci si bacia per dire sono disponibile, ti mostro la mia disponibilità mangiandoti, è un atto favoloso, fantastico. Una persona ti mangia la bocca perché vuole che tu continui a entrare e divorare. Liliana. Sì? Buongiorno. Aspetto. Allora io volevo dire che io ero ragazza, avevo 25-26 anni. Sì. Pronto? Sì, sì, lo dica pure, senza paura. Avevo 25-26 anni. Mi trovavo a Forte dei Marmi. Siamo andati a ballare con una mia amica, siamo andati a ballare. È entrato un ragazzo che non era poi più tanto ragazzo. Quanto aveva? Ma non lo, io non lo so, avrà avuto sui 30 anni, 30. Vabbè, anni, averceli. Insomma, nel senso di non aveva 20 anni per dirle. Vabbè, era un uomo maturo, aveva più esperienza, sapeva sì, come trattarli. Comunque, noi l'abbiamo guardato, noi due, la mia amica Anna ha detto, Liana, guarda che figo che è questo. Insomma, si è seduto vicino a noi, mi ha invitato a ballare, abbiamo fatto due chiacchiere, mi ha invitato a ballare. Mi ha dato un bacio che guardi non me lo dimentico. Ma mentre ballavate? Sì. Così, sì, senza subito. Ballavamo, abbiamo ballato un pochino, poi mi ha preso proprio tutta stretta, mi ha dato un bacio che le dico la verità. Ma davanti a tutti nella pista? Davanti a tutti? Davanti a tutti, ma mi ha dato un bacio così appassionato, così gustoso che le dico io non ho mai avuto un bacio. Ma lei ha ceduto naturalmente, si è lasciata baciare, ha restituito il bacio. Io sì, e come? Proprio perché mi aveva mosso tutti i sentimenti. E poi com'è andata a finire? Beh, sa, quando si balla si sta molto vicini, stretti, esatto, ci si sente esatto. Profondamente. E lo sentiva lei? La serata io non l'ho più visto. Ah, non l'ha più visto? Mai, non l'abbiamo più visto, l'abbiamo cercato in tutta Forte dei Mari. Cioè lei è fatta dare un bacio, ha dato un bacio e poi l'ha lasciato andare via? Sì. Poi dopo abbiamo fatto tutta la serata assieme, abbiamo ballato ancora, però non è... Ma lui non è che ha provato... diciamo andiamo a fare una passeggiata? No. Solo un bacio, un bacio. Quel bacio così appassionato che dico mi ha stravolto i sentimenti, proprio una cosa bellissima. Beh, è bello però avere una donna che rimarrà tutta la vita segnata e stravolta dal nostro bacio. Varrebbe la pena di baciarne una e scappare via a fuggire. Marcello, buongiorno. Buongiorno. Senta, secondo me sta andando un po' fuori discorso, nel senso ci riporti lei nel giusto tracciato. Perché quel video lì, secondo me, ha attirato molto l'attenzione. Le spiego, io ho una figlia di 12 anni, no? Uh-huh. Spesso a tavola io parlo delle mie esperienze passate prima di stare con la mamma. La mamma è tutta contenta lì mentre fa il soffritto, non vede l'ora di sentire che ha fatto lei prima. E quindi niente, io parlando con mia figlia gli ho detto che il mio primo bacio, che avevo 11 anni, me lo ricordo come un bacio semplice. E il momento che l'ho dato è come se il mondo in quel momento scomparisse. Come mi sentivo. Senta, per curiosità antropologica, ma poi vi date il cambio? Sua moglie, anche lei racconta, la prima volta ha baciato qualcuno che non è lei? Sì, esatto. Ah, quindi facciamo questo allora, rapporto. Poi è successo che a mia figlia, avendo 12 anni, gli è successo anche a lei di dare il primo bacio, no? E lei effettivamente ha detto, sai papà, avevi ragione, ha detto, però stiamo parlando di baci semplici, non di senza baci lingua, senza lingua. Sì, esatto. Vabbè, sono baci quelli, una roba da seminaristi, è chiaro che ne parlate in famiglia con questa libertà, sono bacettini, noi parliamo di qualcos'altro, molto più profondo, il preludio all'intima d'azione. Ci sentiamo domani, va.